Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. State pensando di mettervi a dieta? Beh, dopo le vacanze un po' di dieta ci sta, ma io vi invito ad attendere, aspettate un attimo. Prima andiamo a leggere i risultati di uno studio molto interessante che potrebbe fornirci indicazioni e darci degli spunti. In linea con noi abbiamo uno degli autori e lo andiamo subito a salutare, il professor Paolo Piaggi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Professore, avete fatto uno studio molto interessante. Ci aiuti a capire come può venirci in aiuto? Anche perché la domanda a cui avete cercato di rispondere è: sono a dieta, perché mai non perdo peso? Domanda classica. Certamente, sì. Quello che abbiamo scoperto è che nel nostro studio clinico, in cui abbiamo standardizzato la dieta tra tutte le persone volontarie partecipanti allo studio, abbiamo scoperto che ci sono delle grosse differenze nella risposta metabolica a questa dieta, ovvero sia quando noi siamo messi a dieta, quando noi iniziamo una dieta, il nostro metabolismo tende a diminuire, così come appunto abbiamo diminuito il nostro introito calorico, quindi gli alimenti e le calorie che noi assumiamo durante la giornata. Però quello che abbiamo notato che ci sono delle persone che hanno un metabolismo cosiddetto più risparmiatore, che risparmiano più energia, cioè mentre sono a dieta il loro metabolismo diminuisce, quindi spendono meno calorie. E questo, ovviamente, la nostra ipotesi era quello che appunto se ci sono persone di questo tipo la dieta non sarà così efficace a perdere peso, e il nostro studio infatti ha dimostrato che è proprio così. Quindi ci sono delle persone che rallentano maggiormente il loro metabolismo quando sono a dieta, e quindi l'effetto della dieta nel il peso diventa appunto più fievole, quindi diminuisce, e queste persone perdono meno peso nel tempo, nonostante siano a dieta. Quindi risparmiatori o dispendiosi? È la bilancia che parla, ingegnere. Certo, sì, questo è, abbiamo fatto delle misurazioni molto precise nel corso di 6 settimane di dieta, in condizioni appunto in cui potevamo misurare non solo il metabolismo energetico, quindi quante calorie le persone consumavano ogni giorno, ma anche quanto cibo stavano appunto assumendo durante la dieta. Quindi eravamo sicuri che erano effettivamente a dieta, perché gli avevamo dato meno calorie e le abbiamo misurate. Quindi abbiamo identificato questi due profili metabolici, li abbiamo chiamati, quindi quello più risparmiatore e quello più dispendioso, e abbiamo scoperto appunto che le persone con metabolismo più risparmiatore hanno perso meno peso alla fine delle 6 settimane, rispetto invece alle persone più fortunate, diciamo, che erano a dieta ma hanno un profilo metabolico più dispendioso, che hanno perso maggiormente peso. Quindi la dieta è stata più efficace in queste persone rispetto alle altre. E ci tengo a precisare che la dieta era appunto stata standardizzata per tutti i soggetti, quindi tutti i soggetti assumevano un numero di calorie che era esattamente la metà del loro fabbisogno energetico giornaliero. Professore, ma sono più i dispendiosi o i risparmiatori? Diciamo che il numero più o meno è lo stesso. Innanzitutto ci tengo a precisare che tutti i volontari del nostro studio erano soggetti in sovrappeso o con obesità, perché sono appunto le persone in cui la dieta è il modo migliore per poter perdere peso, oltre ovviamente l'attività fisica e altre terapie farmacologiche se necessarie. Però anche in questo gruppo di soggetti appunto con sovrappeso e obesità abbiamo trovato un numero più o meno uguale di persone con un metabolismo più dispendioso e più risparmiatore. Quindi tra questi ci sono quelli in cui la dieta è efficace a perdere peso, sono appunto profilo metabolico dispendioso, mentre l'altra metà circa erano con un profilo metabolico più risparmiatore, quindi perdevano sì del peso ma molto poco, e quindi la dieta non risultava così efficace. Ma professore, quando è che viene fuori la natura del nostro metabolismo? Dopo quanto tempo? In questo studio abbiamo scoperto che già dopo una settimana di dieta si vengono fuori queste differenze metaboliche. Infatti il nostro studio è stato, diciamo, progettato sapendo che la dieta, ovviamente, per far perdere peso bisogna appunto protrarla per almeno circa un mese, nel nostro caso 6 settimane. Però quello che noi volevamo appunto trovare è capire se all'inizio della dieta, per esempio dopo una settimana di dieta, se c'erano dei marker, appunto in questo caso abbiamo usato il metabolismo energetico, e se questo metabolismo energetico dopo 7 giorni di dieta potesse già dirci qualcosa di quello che succederà poi tra 6 mesi se questa dieta viene appunto continuata. E l'abbiamo trovato, ed è proprio così, quindi dopo una settimana, probabilmente anche dopo 3 giorni si potrebbe vedere, non l'abbiamo misurato, ma uno per estrapolazione potrebbe già appunto individuarlo anche più precocemente, però già solo dopo una settimana si possono evidenziare questi profili metabolici e quindi già a quel punto possiamo dire cosa succederà in termini di calo ponderale, quindi di perdita di peso a più a lungo termine, per esempio dopo 6 settimane di dieta. Quindi se nella prima settimana di dieta io vedo pochi risultati, probabilmente il mio metabolismo è un metabolismo risparmiatore. E il vostro studio ha anche l'obiettivo di suggerire la dieta più indicata. Tante volte anche nei nostri programmi, negli incontri della Bufala in Tavola, il programma della domenica, esperti in nutrizione, scienze dell'alimentazione ci hanno detto che la dieta deve essere personalizzata. Anche il vostro studio va in questa direzione. Ma professore, lei che lo studio l'ha ideato e l'ha seguito, cosa possiamo fare? Certo, certamente. Con questa scoperta appunto dei profili metabolici appunto risparmiatore e dispendioso possiamo già indirizzare diverse persone, diciamo, a terapie più personalizzate per perdere peso. Cosa vuol dire in termini pratici? Noi appena identifichiamo una persona con un metabolismo più risparmiatore, sappiamo che l'effetto della dieta sulla perdita di peso sarà ridotto. Quindi in queste persone bisognerà sicuramente integrare con altre terapie da coadiuvare ovviamente sempre la dieta che va continuata appunto nel tempo per poter perdere peso. Queste altre terapie potrebbero essere appunto regimi di attività fisica costanti di una certa intensità, oppure possiamo tramite appunto la prescrizione medica dare farmaci anti-obesità che innalzano il metabolismo, che stanno appunto uscendo e vengono approvati dall'FDA, che è appunto questo organo americano per i farmaci, esatto, che ogni anno ci sono nuovi farmaci che vengono utilizzati per combattere l'obesità. Quindi tutte queste terapie devono essere appunto aggiunte alla dieta per poter perdere peso in questi soggetti che hanno un metabolismo più risparmiatore. Mentre invece i soggetti che hanno un metabolismo più dispendioso sappiamo che si devono concentrare fondamentalmente sulla dieta, perché ovviamente l'assunzione per tutti i soggetti che questa dieta va mantenuta nel tempo, bisogna avere aderenza alla dieta, questo è necessario perché le persone possano perdere peso. Certo. Esatto, questo sicuramente, però nei soggetti con metabolismo più dispendioso sappiamo che la dieta avrà un grosso effetto nella perdita di peso, quindi possiamo appunto dirvi concentratevi sulla dieta e con questo perderete peso, non serviranno ulteriori terapie. Questo è solo l'inizio, questi consigli che io mi sento di dare è solo l'inizio di quello che poi in futuro sarà, diciamo, questa medicina di precisione applicata al campo dell'obesità, e questa medicina di precisione conterrà anche informazioni del DNA. Noi stiamo cercando di individuare i geni del nostro DNA che sono imputati al nostro metabolismo, quindi i geni che appunto se sono regolati, diciamo, maggiormente o in maniera minore nelle varie persone fanno bruciare o meno più calorie. Quando noi li individueremo poi svilupperemo anche farmaci che permetteranno appunto di modificare l'espressione di questi geni. Di accenderli o di spegnerli. Esattamente, e in particolare nei soggetti con profilo metabolico più risparmiatore andremo a accendere o a disattivare quei geni che o aumentano appunto o diminuiscono il metabolismo, in modo da poter compensare questo deficit, diciamo, genetico che una persona purtroppo si ritrova ad avere dalla nascita, per poter cambiare il loro profilo metabolico e renderlo più dispendioso e quindi così aiutarli a perdere peso. E quindi, professore, si potrebbe trovare una cura all'obesità. Esattamente. E questo è il suo campo di ricerca, perché io voglio dirlo, perché lei è tornato, lei è un cervello di ritorno presso l'Università di Pisa, proprio grazie al programma Rita Levi Montalcini, e lavora, i suoi interessi di ricerca si focalizzano proprio sull'identificazione, anche la caratterizzazione dei fenotipici metabolici nei soggetti obesi. Quindi noi siamo partiti un po' da quello che poteva essere una buona notizia per gli amici che ci stanno seguendo e che magari stanno accarezzando l'idea di mettersi a dieta. Spesso si dice: ma la tua dieta funziona? Quanto hai perso? Non ho perso. Ma tutto questo è uno studio che apre a ulteriori studi per trovare risposte ad un problema che è molto serio, un problema di salute che ha un peso molto impattante, professore, che è quello dell'obesità. Assolutamente sì, l'obesità, la prevenzione dell'obesità sta aumentando in tutto il mondo e in particolare anche in Italia, sebbene i valori di prevalenza di obesità nel nostro paese non sono così alti come magari appunto negli Stati Uniti. Purtroppo stiamo notando che sta aumentando anche da noi, in particolare nei bambini, nella fascia dell'adolescenza, dell'infanzia, si hanno sempre più casi di sovrappeso e obesità, e questo ovviamente è una cosa importante che bisogna intervenire il prima possibile per poter appunto prevenire questi soggetti e il loro aumento di peso, perché sappiamo che quando noi aumentiamo di peso risulta molto ma molto difficile poterlo perdere. Questo perché ci siamo evoluti nel corso di centinaia di migliaia di anni avere un metabolismo tendenzialmente più risparmiatore, perché non avevamo appunto accesso al cibo come ce l'abbiamo oggi. Quindi negli ultimi 50-60 anni ora il cibo è disponibile per chiunque, quindi una volta che il nostro organismo lo incamera fa di tutto per poi mantenere il peso alto, e quindi questo spiega perché l'obesità tende a prevalere appunto negli ultimi decenni, e dobbiamo sicuramente fare il nostro massimo per poterla limitare, in quanto l'obesità è una concausa di molte altre patologie cardiovascolari, del diabete eccetera, certo. E dobbiamo assolutamente fare il nostro meglio. Professor Piaggi, dai vostri studi avete individuato le caratteristiche della dieta, dello stile alimentare più adatto per farci perdere peso? Sì, certo, abbiamo individuato che in base al profilo metabolico di una persona esiste una dieta più specifica che permette appunto all'organismo di bruciare più calorie e quindi di perdere più peso. In particolare nei nostri studi abbiamo scoperto che non solo esistono i profili metabolici più dispendioso e più risparmiatore, ma esistono anche profili metabolici più brucia grassi e più brucia carboidrati. Quindi se una persona è nel fenotipo metabolico di brucia carboidrati, bisogna dare una dieta ipocalorica con un contenuto maggiore di carboidrati. Perché? Perché avendo un profilo metabolico che brucia carboidrati, quella persona brucerà più i carboidrati, e quindi i nutrienti, le calorie che sono poi assorbite risulteranno minori, in quanto poi vengono subito ossidate. E la stessa cosa per chi ha un profilo metabolico invece brucia grassi. In quel caso il dietista potrà sviluppare una dieta un po' più ricca di grassi, in quanto il profilo metabolico brucia grassi li brucia di più, e quindi alla fine otterremo dell'efficacia migliore di queste diete per la perdita di peso. Insomma, proprio tagliata e cucita su misura. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata.